Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore, eccoci qua con Ferry Boat. Questa puntata richiama un po' a dei trascorsi. Forse ricorderete, chi di voi ci segue costantemente, prima dell'estate abbiamo parlato di un viaggio verso i nuovi mondi delle tecnologie, la Singularity University. Abbiamo parlato di questa super scuola NASA Google con dei super studenti. C'era con noi Eric Ezechieli, che si apprestava a partire per questo incredibile letterale viaggio, è tornato, è qui con noi e adesso ci facciamo raccontare. Università firmata dalla NASA. Ci può essere qualcosa di più dal punto di vista didattico? Certo, un'università firmata dalla NASA e da Google. L'obiettivo della Singularity University? Semplicemente salvare il mondo con progetti imprenditoriali molto concreti in grado di risolvere i problemi del pianeta. Il gruppo italiano non si è fatto pregare e si è messo al lavoro sull'energia, sulla biotecnologia, sul trasferimento della tecnologia. Ed eccoci qua con Eric Ezechieli. Ciao Eric. Ciao Enzo. Vi ricordo en passant che lui è anche presidente di The Natural Step, che è un network globale di imprenditori per la sostenibilità, che anche in questa veste aveva fatto bella mostra di sé nella precedente puntata di Ferry Boat. Ma adesso lui è ritornato dopo 3 mesi vissuti, proprio il caso di dirlo, splendidamente. Come fai a sintetizzare in 30 secondi quello che ti è capitato in questi 3 mesi, Eric? Direi un'esperienza travolgente di apprendimento, perché ci si rende conto come i prossimi anni saranno molto molto diversi, radicalmente diversi da quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi, e di come tecnologie che sono cresciute negli ultimi anni stiano prendendo un'accelerazione esponenziale. Proprio il tema dell'esponenzialità è uno dei fulcri su cui si fonda tutto il discorso di Singularity. Quello che succederà nei prossimi anni non è neanche lontanamente paragonabile, in alcun modo rapportabile con quello che è successo prima di noi. Ricordiamo però, perché adesso avete buona memoria, ma insomma è il caso di ricordare, Singularity University, tra 1600 candidati sono stati selezionati 80 super studenti, diciamo così per semplificare, di cui 7 italiani, che hanno formato il Team Italy 2010 della Singularity University, che sono stati accettati, Eric. Cioè è chiaro che non tutti potevano vivere dal punto di vista didattico intensamente l'esperienza proposta. Che esperienza era in termini proprio didattici, professori nelle aule, che cosa è stato da questo punto di vista? Quasi quotidianamente si lavorava dalle 8 di mattina alle 2-3 di notte, perché c'erano nella prima fase lezioni proprio dalle 9 fino anche 9 di mattina fino alle 10 di sera, e poi gruppi di lavoro formali, informali che si organizzavano, e soprattutto la conversazione, lo scambio, l'apprendimento reciproco tra gli studenti, perché ciascuno che incontravi lì era veramente uno dei massimi riferimenti nel proprio ambito, quindi biotecnologie, nanotecnologie, intelligenza artificiale, energia, sistemi ambientali, eccetera. Quindi c'è stato un ricchissimo apprendimento, una ricchissima contaminazione tra diversi campi del sapere, cosa che normalmente non accade in un ambiente di apprendimento, in un'università. Hai fatto un elenco già degli argomenti, ma c'era anche la finanza, l'imprenditoria, gli studi legali, l'etica, qui l'elenco, certo, di tutti gli argomenti che avete affrontato. La cosa che comunque colpisce, come immagino possa colpire i nostri ascoltatori, è che questi argomenti non sono stati studiati in astratto, ma in qualche modo con le ricadute che hanno sulla salute umana, sulla fame nel mondo, sulla sicurezza, sull'ambiente, sulla dignità dell'uomo. Quindi, come dire, scienze futuriste ma applicate al quotidiano. Assolutamente sì. L'obiettivo è capire come queste tecnologie in crescita esponenziale possono essere imbrigliate, indirizzate per risolvere le più grandi sfide dell'umanità. Quindi questo era uno proprio dei criteri di selezione. Chi era lì era stato scelto proprio per la sua passione e il suo impegno in questa direzione. Ho letto in questi giorni di una vernice che arriva, credo, dalla Cina, tanto per cambiare, che spalmata su qualsiasi superficie rende fotovoltaico quell'oggetto, no? Quindi se spammi questa vernice riesci ad immagazzinare immaginaria energia. Adesso non so quanto sia vero o meno, ma non era questa la sede. Lo cito perché mi sembra evidente che la tecnologia è la chiave di soluzione dei più grandi problemi. Risolvere il problema dell'energia o della fame o della sete nel mondo oggi sembra assolutamente improponibile, ma la tecnologia può e il mondo digitale possono risolvere questi problemi. Abbiamo scoperto che in realtà le soluzioni sono molto più vicine di quanto si possa pensare. Parlavi di energia e qui siamo davanti proprio a una rivoluzione nel modo di produrla, e facendo leva ad esempio sulle nanotecnologie. Il prodotto di cui parlavi prima è un'applicazione nanotecnologica, per cui la vernice, dici? Sì, la vernice. Si presentano scenari nuovi, ma anche sull'acqua noi oggi siamo già in grado di produrre, di dissalare acqua a prezzi assolutamente bassissimi, accessibilissimi, usando energie rinnovabili, quindi anche grandissime speranze per miliardi di persone che nei prossimi decenni altrimenti andrebbero incontro a gravi problemi per carenza di acqua. Vediamo in questa scheda, fra l'altro, una giornata, chiamiamola così, tipo della Singularity University. Il programma alla Singularity University procede a ritmo serrato con visite ad alcune delle più innovative aziende della Silicon Valley. E si scoprono storie interessanti come questa. Cosa succede quando una missione per mandare astronauti su Marte viene posticipata? Qualche giorno fa abbiamo visto alcune delle conseguenze con una visita alla sede di Bloom Energy, che è nata come iniziativa privata proprio a seguito di questo cambiamento di programma. Siccome per andare su Marte ci vogliono alcuni mesi, è indispensabile progettare sistemi che consentano di vivere secondo cicli chiusi, recuperare interamente acqua e ossigeno che servono per il sostentamento delle persone con altissima efficienza. Per questo, K.R. Sridhar, al centro di ricerca NASA Ames, aveva inventato una cella a combustibile che, usando energia fotovoltaica, avrebbe prodotto l'ossigeno che serviva agli astronauti. Se ci pensiamo, questa è la stessa cosa che dobbiamo fare sulla Terra, imparare a usare tutte le risorse secondo cicli chiusi, perché di fatto il pianeta Terra è un sistema chiuso, come lo è un'astronave. Mi sembra chiaro quello che avete ascoltato, da solo una vaga idea, ma voglio dire estremamente significativa. Quello che ci piace del progetto della Singularity University di NASA e di Google, oltre a questa esplosione di marchi incredibili, è il, come è stata definita anche dalla stampa in questi giorni, il concetto di apprendimento imprenditoriale, che potrebbe essere, come dire, un modo per definire e sintetizzare l'obiettivo della Singularity University. Chiara Giovenzana, che è una delle esponenti del neonato Team Italy, ciao Chiara. Ciao Enzo. È per esempio una espressione di questo apprendimento imprenditoriale. Chiara, tu ti occupi, sei appassionata, sei studiosa di biotecnologie. Sì, esatto. E in questa veste, questa esperienza così generalista, chiamiamola così, di Singularity University, ha, immagino, rafforzato la convinzione che quello è uno dei filoni su cui puntare. Assolutamente, sì. E anzi, come accennava prima Eric, il fatto che le biotecnologie stanno avendo una crescita esponenziale come le altre grosse tecnologie tipo nanotech, energy. E quindi le aziende che vogliono stare nel settore biotech devono rendersi conto di questa crescita esponenziale ed adattarsi. Tu sei partita che avevi già l'intenzione di fare, di diventare imprenditrice delle, esatto, biotecnologie. E che cosa ti ha aggiunto l'esperienza della Singularity da questo punto di vista? Due cose principalmente. Una, appunto, che devo adattare la company che sto facendo partire, la startup, a questa crescita esponenziale delle biotech. Quindi assumere che i cambiamenti non ci saranno in maniera lineare, ma molto più velocemente di quello che il mercato potrebbe prevedere adesso. E dall'altro lato invece un grandissimo networking. Quindi vi ho conosciuto persone che sono leader in diversi settori dal punto di vista imprenditoriale e non solo, e saranno degli agganci che saranno utilissimi per la company. Eric, c'era una cosa durante le nostre chiacchierate preliminari che mi aveva colpito e che vale la pena citare. Tu dicevi che alla Singularity University non c'era nessuno che era geloso delle proprie idee, non c'era nessuno che nascondeva dietro di sé per paura di essere defraudato. Anzi, questo networking di cui parla Chiara è uno dei valori assoluti delle nuove imprese del futuro. Non c'è il video, ma sto ridendo perché penso alla differenza rispetto ad altri ambiti. In Silicon Valley, in Singularity University, ciascuno è incentivato il più possibile a condividere e a diffondere le proprie idee. Nessuno è preoccupato che gli vengano rubate, che vengano prese. Dicono, ce ne sono talmente tante, tutte talmente buone, che è difficile che trovi qualcuno che sia disposto di lavorarci più di te. Quindi è meglio che lo fai sapere il più possibile e molto probabilmente troverai qualcuno che è disposto ad aiutarti. Quindi questa proiezione verso il futuro rispetto alla conservazione di quello che invece c'è già. Chiara, aiutaci a capire con parole semplici la tua azienda che cosa produrrà. Allora, in parole semplici produrremo dei bioreattori che sostanzialmente sono degli strumenti che permettono di far crescere le cellule in tre dimensioni. Quindi alla fine i bioreattori permettono di generare dei pezzi di tessuto biologico, quindi un pezzo di osso, un pezzo di cartilagine, un pezzo di organo, quindi con applicazioni incredibili dal punto di vista della ricerca, dello sviluppo di farmaci e anche in clinica. Senti Chiara, so che non hai ancora deciso dove la tua impresa nascerà, in Italia, in Svizzera, dove tu risiedi mi pare, o negli Stati Uniti, da dove arrivi. È una scelta difficile che si può leggere in mille modi, ovviamente. Hai deciso nel frattempo? Sì, è una scelta difficile, ma credo di aver deciso e penso che la fonderò in Svizzera, ma cercando di coinvolgere l'Italia il più possibile, proprio perché io vorrei fare tutto quello che è in mio potere per l'Italia, quindi non voglio essere uno di quelli che scappano e vanno negli Stati Uniti, ma uno di quelli che va negli Stati Uniti, impara qualcosa e lo riporta nel proprio paese. Bene, bella esperienza, belle persone anche in questi valori. Grazie Chiara, in bocca al lupo ovviamente, facci sapere come vanno le cose. Assolutamente. Ciao. Ciao. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Beh, insomma, fa bene sentire la voce squillante di una giovane, della giovane Chiara Giovenzana, ma anche del giovane Eric Ezechieli, che ci parla di tecnologie, di futuro, di soluzione dei problemi del mondo, anche perché stiamo vivendo un periodo, diciamo, in Italia che certamente non ci lancia verso queste praterie sconfinate, ma purtroppo ci confina in cortili asfittici e maleodoranti. Questa mi è proprio venuta bene. Ci piace anche una cosa di quello che ha detto Chiara, e la commentiamo velocemente con Eric prima di passare a Luca Scoffier. Chiara ha detto faccio l'azienda in Svizzera, e ci sono tanti motivi, immaginiamo, per cui questo avviene, ma voglio mantenermi legata con l'Italia, che è la sua patria d'origine. Però questi mondi che avete disegnato in Silicon Valley non hanno molti confini, Eric, è così? Sì, direi che un tratto che accomuna tutti i partecipanti e molti dei giovani con cui abbiamo a che fare oggi è che non vedono più il confine nazionale, non si pensa più in termini di Stato o di protezione di una competitività di una nazione, si vede proprio un mondo aperto e la possibilità di far circolare le buone cose il più possibile. Poi che sia in un luogo o nell'altro, ci sono anche tecnologie che ci consentono di superare le distanze geografiche. D'altronde con il mondo digitale, con internet, abbiamo abbattuto le barriere spazio-temporali non a caso. Questo certo. Non è un modo di dire, non è uno slogan, ma è la palpitante realtà. Vero Luca, tu Scoffier sei un esperto di brevetti. Ciao intanto. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio. Tu sei un esperto di brevettabilità e standardizzazione delle invenzioni nel campo delle nanotecnologie. Adesso ce la devi spiegare bene, io l'ho capita più o meno, ma insomma non mi fido più di tanto. Beh, questo è il campo di studio della mia tesi di dottorato. In realtà io ho un background giuridico. Nel 2003 mi innamoro del diritto industriale, quindi faccio un master fra Ginevra e Torino. Poi comincio a lavorare per un'azienda di biotecnologie, nanotecnologie qua a Trieste, in area Science Park, che è uno dei più grandi parchi scientifici e tecnologici d'Italia. E poi nel 2008 mi trasferisco a Seattle. Dove sei presidente e amministratore delegato di un'azienda. dove è molto più semplice, come forse avrete già detto prima, creare delle realtà imprenditoriali, quindi anche io ho voluto creare la mia piccola, il mio piccolo tesoro, e c'è un'azienda che fa consulenza nel campo della strategia del diritto industriale, quindi aiutare, cercherà di aiutare i ricercatori, anche gli enti a cui i ricercatori appartengono, a monetizzare le loro idee e non a tenerle solamente nei cassetti. In realtà stavamo parlando con Eric giusto dell'abbattimento dei confini e delle barriere, però quando si parla di brevetti, di tecnologie, le barriere ci sono, e come, la battaglia bella tosta, perché qui ci sono interessi planetari in campo. Ci sono assolutamente interessi planetari, ed è per quello proprio che bisogna essere consci del fatto che non si può guardare solo il proprio orticello, ma bisogna guardare al giardino, che è molto più grande ed è grande come il nostro pianeta. La Singularity University è un vero e proprio parco, più che un giardino per te, per chi fa questo mestiere. È stato sicuramente molto importante, interessante questa esperienza che hai fatto. Prima di andare in California chiesi a uno degli ex partecipanti: sei tornato arricchito? E lui mi rispose: sono tornato diverso. Non posso fare altro che sottoscrivere questa affermazione. Siamo, penso, tutti noi cambiati radicalmente. Tu come potresti descrivere questo cambiamento? Beh, proprio oggi sono tra l'altro a una conferenza qua a Trieste in cui c'era qualcuno che ha detto: non è portabile il modello di Silicon Valley in Italia, è inutile che continuiamo a chiedercelo. Francamente non sono d'accordo. Ci siamo resi conto, io, Chiara, Eric e gli altri italiani, tutti gli altri ragazzi che erano lì, che effettivamente le cose possono essere cambiate, solamente lo spirito. Noi avevamo pochissime risorse, cioè solo le nostre teste e dei laptop, e abbiamo creato in 10 settimane dei progetti incredibili. Bisogna ricordare anche gli altri nomi di quelli che oggi non abbiamo potuto invitare, chiaramente non potevamo farlo con tutti: Francesco Galietti, Valentina Margaria, Diva Tommei, Chiara Torelli. Questa è la squadra, il Team Italy. Va detto anche, va ricordato ai nostri ascoltatori, che è stato anche un investimento importante dal punto di vista economico partecipare a Singularity University, vero Eric? Sì, Singularity ha una targhetta del prezzo di $25,000, e la logica è quella di pagare completamente o in parte a chiunque non si possa permettere il corso. Quindi c'erano circa un terzo degli studenti che venivano da paesi assolutamente poveri e quindi hanno avuto una piena copertura, altri sono stati sponsorizzati in parte, altri hanno trovato finanziatori per i fatti propri, e altri ancora erano proprio imprenditori mega milionari che avevano magari fondato aziende, e questi anzi non solo pagavano ma anche potevano contribuire anche per gli altri. Sì. Luca, non abbiamo detto il perché è meglio fare imprese fuori dall'Italia. Tu perché la stai facendo a Seattle? Sicuramente in primo luogo l'entità delle spese. Creare un'azienda negli Stati Uniti non solo è semplice, perché effettivamente avviene in un giorno, ma è anche molto più economico, non ci sono notai di mezzo, non ci sono avvocati, non c'è tutta quella burocrazia che complica, appesantisce, a volte inutilmente a mio avviso, il desiderio di questi giovani ragazzi, nel nostro caso, che vogliono creare delle realtà per realizzare le loro idee. E poi anche perché immagino lì la conoscenza su questi temi, in questi ambiti, viaggia più rapidamente e anche in maniera più fattiva. Sicuramente, Seattle, forse non tutti sanno che non è solo il luogo in cui è nato Starbucks, ma c'è anche la Microsoft, si parla sempre di Redmond, ma Redmond è a Seattle, c'è Amazon, c'è Expedia, ci sono grandissime realtà nel mondo del software, quindi Seattle è una sorta di seconda Silicon Valley. Ecco, e c'è, fra poco adesso ci sarà anche, come si chiama la tua azienda? Usquet Sidera. Ecco, se non altro non è in inglese, insomma, no, questo qui è in latino, corretto, quindi già questo, comunque un po' di italianità c'è anche in questo. In bocca al lupo per la tua azienda, Luca, grazie di aver partecipato, e in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie mille. Ciao, Eric. 30 secondi per chiudere la nostra puntata. In realtà una battuta di Luca te la voglio rigirare. Lui dice: in Italia è possibile fare una Silicon Valley, quindi perché dice così Luca, e perché secondo te fino a questo momento non c'è stata una Silicon Valley, a parte qualche nota di colore, no? Ma io credo che in termini di cervelli, di persone, di capacità, in Italia non ci manca assolutamente niente. Credo che dobbiamo mettere in rete tutte queste capacità e fare in modo che possano collaborare il più possibile, probabilmente con meccanismi molto diversi da quelli che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Quindi direi prendere un modello di quel genere, ma al di fuori delle logiche solite che conosciamo in Italia. Idea che Team Italy, Singularity University Team Italy 2010, non si esaurisce in questa esperienza didattica, ma avrà un ruolo anche in questo, ed è quello che ci auguriamo. Grazie Eric Ezechiele, ciao, alla prossima. Grazie a tutti. Grazie anche alla Rita Panizza in redazione e a Roberto Scaltritti in regia. Il programma potete riascoltarlo anche sul sito di radio24.it. A risentirci.